La Bolivia è governata da un ex militare, il presidente René Barrientos, salito al potere nel 1954 con l'appoggio degli Stati Uniti attraverso un colpo di Stato legittimato poi con le cosiddette elezioni democratiche. All'alba del 5 novembre del 66 il Che lascia La Paz per dirigersi con la sua jeep a Ñancahuanzú, un'area isolata piena di foreste nel sud-est della Bolivia. È qui che ha intenzione di stabilire il campo base dei guerriglieri. Nella notte tra il 6 e il 7 novembre arriva sul posto. Per il momento Ernesto Guevara si fa chiamare solo con il suo nome in codice, Ramon. Così il racconto di alcuni dei suoi compagni di guerriglia. Per tutto il tempo che ho trascorso con lui, non ho mai saputo che fosse il Che. A me era stato presentato come il nostro comandante, con il nome di Ramon. Mi impressionò molto. Mi colpì moltissimo. Aveva una presenza notevole. Era diverso dagli altri. Non aveva dovuto imporsi. Lui era il capo e basta. Aveva un carisma incredibile. Che Guevara spera di trovare almeno 150 compagni, ma al suo arrivo ne trova soltanto un terzo. Inizia a costruire il campo base scavando nascondigli sotterranei nella foresta per nascondere armamenti, documenti e provviste di cibo. E intanto aspetta rinforzi, rinforzi che non arriveranno mai. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Ernesto Guevara, col falso nome di Ramon, inizia non senza difficoltà la sua guerriglia in Bolivia, ma crede di avere una carta vincente, Fidel Castro. Infatti gli ha garantito l'appoggio del Partito Comunista Boliviano. Il partito dovrà organizzare le provviste di cibo e di armi e arruolare nuovi combattenti, selezionandoli nelle fila dei giovani attivisti comunisti. Ma i comunisti boliviani non aiuteranno mai Che Guevara e il suo gruppo. Il partito ha avuto ordini precisi da Mosca. È tempo di abbandonare la guerriglia e di rinunciare alla rivolta armata in America Latina. Nel nuovo assetto della guerra fredda che divide il mondo, Unione Sovietica e Stati Uniti stanno attraversando un periodo di coesistenza relativamente pacifica. Ma non è tutto. Il Cremlino infatti da anni nutre sospetti e diffidenze verso il Che, un rivoluzionario intransigente che è diventato molto popolare, troppo popolare. E nelle sue apparizioni i suoi discorsi vengono interrotti da continui applausi. L'eliminazione dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, di cui l'imperialismo è un ovvio esempio. L'avvento definitivo del comunismo, una società senza classi, una società perfetta. Durante un incontro con Castro, qualcuno disse che il Che era l'uomo perfetto. Castro allora rispose che era quasi perfetto. Allora l'altro disse, perché? Castro rispose, perché gli manca la furbizia. Il Che non è abbastanza astuto. Era vero, lui era incapace di sotterfugi. Un carattere schietto e diretto, un'irruenza che lo porta a commettere degli errori fatali. Il 24 febbraio del 65, in un discorso ad Algeri, il Che accusa l'Unione Sovietica di essere imperialista quanto gli Stati Uniti. Mosca non glielo perdona. Sentiamo lo storico Umberto Vasquez Viana e poi uno dei suoi guerriglieri. Era una dichiarazione di guerra. I russi accusavano il Che non solo di maoismo, ma soprattutto di trotskismo. E questo all'epoca, questo era considerato uno dei peccati peggiori. Venivi subito emarginato. Eri finito. Fidel e gli altri lo incontrarono al suo ritorno da Algeri. Rimasero a parlare per più di 3 giorni consecutivi. Al termine dell'incontro rilasciarono delle dichiarazioni. Il Che aveva deciso di lasciare tutti i suoi incarichi ufficiali. E in questo modo Cuba non avrebbe avuto più alcuna responsabilità diretta. Oggi però sappiamo che in realtà era stato costretto a mollare. Di quell'incontro non resta nessun documento ufficiale. Non si sa che cosa si siano detti Fidel Castro e Che Guevara, né se Castro abbia chiesto a Guevara di pagare il prezzo della sua intransigenza e del suo idealismo. Ma un fatto è certo. L'amicizia tra i due sta andando in pezzi e con questa chiacchierata il Che ha firmato il suo suicidio politico. Il guerrigliero scrive una lettera di addio, nella quale annuncia di voler rinunciare a tutti i suoi incarichi e dicendo di voler lasciare Cuba per esportare la rivoluzione. Il 13 ottobre del 65 Castro pubblica quella lettera. Ernesto Guevara verrà ucciso esattamente 2 anni dopo. Ce ne parla lo storico Umberto Vázquez Viana. È in quel momento che è stato fatto fuori. Castro ha eliminato il CE il 13 ottobre 1965, rendendo pubblica la sua lettera. In quel momento è finito tutto. In Bolivia il CE pensava di poter essere nuovamente un guerrigliero. Ma ben presto lo abbandonano sia i sovietici che i cubani e non ha nemmeno l'appoggio dei comunisti boliviani. 1 febbraio 1967. Che Guevara sceglie 25 uomini per una missione di ricognizione nella regione del Rio Grande. Vuole arruolare nuove reclute. I guerriglieri trovano solo un gruppo di contadini isolati e diffidenti. Dopo un mese, il Che e i suoi uomini, stremati, fanno ritorno al campo base a Nyankawazú. Qui trovano alcune nuove reclute, tra cui il francese Regis Debré, un intellettuale pro-Castro, e un argentino, Ciro Bustos, un pittore e comunista militante. Ascoltiamo Eusebio Tapia. Ho visto Ramon parlare con queste persone. Parlò con Danton, che in realtà si chiamava Regis Debré. Un francese che sembrava un gringo, come tutti gli altri. E parlò anche con l'uomo calvo, Ciro Bustos, che sembrava un borghese. Ho pensato, che cosa ci fanno qui questi borghesi? Noi combattiamo contro i ricchi e improvvisamente ci ritroviamo al nostro fianco. Il Che ha un altro problema. Ha scoperto che 2 boliviani hanno disertato. È arrivato il tempo dei tradimenti. Così Daniel Alarcón Ramírez e poi Eusebio Tapia. La deserción de Pastores Rocabado fue... L'abbandono di Pastore Rocabado ha praticamente distrutto la guerriglia. A loro non andava bene la presenza cubana. Non andava bene che tra noi ci fossero dei membri clandestini del Partito Comunista e che tutto fosse illegale. Nel gruppo c'era una tedesca, un francese, un peruviano e un argentino. Era troppo. Alla prima occasione sono scappati. Sono andati a Lagunilla. Se fueron a dar a Lagunilla. Mi raccontarono tutto. Mi dissero che erano corsi dall'esercito per raccontare tutto sulla guerriglia. Erano convinti che con la ricompensa che gli sarebbe stata pagata avrebbero potuto pagarsi le spese per tornare a casa. L'esercito li fece tornare a casa con un aereo, così durante il viaggio avrebbero potuto indicargli dov'era il campo base. L'informazione raggiunge il palazzo presidenziale. Barrientos avverte immediatamente le truppe. Così il racconto di Eduardo Torrico, ex ufficiale dell'esercito boliviano. Ci ordinarono di condurre un'operazione nel sud-est della Bolivia, perché il paese era stato invaso da forze straniere. Uscimmo molto presto, saranno state le 6 del mattino. Dovevamo fare 2 ore di volo. Sull'aereo cantammo il nostro inno nazionale. Purtroppo i servizi segreti avevano organizzato male l'operazione. Quando arrivammo sul posto non trovammo nessuno. Erano già andati via. 2 giorni dopo l'esercito boliviano fa un secondo tentativo. Ascoltiamo ancora il racconto dei guerriglieri José Castillo Chávez e Eusebio Tapia. Era il 23 marzo, le 10 del mattino. I soldati iniziarono ad arrampicarsi sulle colline verso di noi. Potevamo vederli mentre si arrampicavano lentamente, erano in molti. In quel momento qualcuno urlò: la guerra è iniziata, l'esercito sta avanzando, dobbiamo essere pronti. Eravamo solo in 8, eppure riuscimmo ad avere la meglio.

ma le autorità boliviane e americane hanno bisogno di una conferma, hanno bisogno di sapere chi c'è dietro questa rivolta. Sentiamo lo storico Vasquez Viana e poi Walter Rostow, consigliere americano per la sicurezza nazionale. Con la pubblicazione di queste informazioni da parte dei cubani, Debré non aveva più bisogno di parlare. La sua presenza in Bolivia era sufficiente a tradire il CE. Del resto lo stesso CE in aprile scrisse nel suo diario: con la pubblicazione del mio articolo a La Habana, non ci sono più dubbi circa la mia presenza qui. Ne fummo certi dopo le dichiarazioni di Debré, che avevamo fermato a Muyupampa. All'inizio dell'interrogatorio ci disse che era venuto nel nostro paese perché voleva fare un'intervista a Ernesto Guevara e che ci era riuscito. Per noi questa fu la conferma che il CE era a capo di quel gruppo di guerriglieri. Washington, 11 maggio del 67, sulla scrivania del presidente Johnson alla Casa Bianca arriva una nota del consigliere per la sicurezza nazionale Walter Rostow. Il CE è vivo e operativo in America Latina. La morsa intorno al CE si sta stringendo. Il presidente Barrientos dichiara lo stato d'assedio. Ormai nella partita sono coinvolte anche Mosca e Washington. Il 26 giugno il primo ministro sovietico Alexei Kosygin è in visita a Cuba. Il Cremlino cerca di convincere Castro a fermare la guerriglia. Ma Castro non è d'accordo. I movimenti di liberazione dell'America Latina vanno appoggiati sempre e comunque ad ogni costo. Anche gli Stati Uniti vorrebbero impedire a Barbudos di esportare la loro rivoluzione in America Latina e nell'aprile del 67 inviano consulenti militari che hanno già combattuto in Corea e Vietnam a supervisionare l'addestramento dei circa 700 ranger boliviani. Si tratta di esperti in guerriglia. Per il CE e i suoi uomini i mesi che seguono sono interminabili. Abbiamo trascorso un anno girando in cerchio. Questo ha permesso all'esercito di circondarci. Era la loro tattica e noi non avevamo via d'uscita. Spesso non mangiavamo per giorni, anzi per settimane, perché avevamo finito le provviste. Non eravamo preparati psicologicamente per superare delle condizioni così dure. Se fossimo andati dai contadini a chiedere cibo, ci avrebbero tradito. Dovevamo prendere 1000 precauzioni solo per poterli avvicinare, sperando che, dopo averci venduto da mangiare, non ci avrebbero tradito. Durante il mese di luglio, il CE continua il suo cammino. L'asma, di cui soffre fin da bambino, gli provoca forti attacchi, ma non ha più medicine per curarla. Ce ne parla Leonardo Tamayo. I suoi attacchi d'asma duravano giorno e notte. A volte perdeva conoscenza. Lo abbiamo trasportato in barella per più di 10 chilometri, mentre l'esercito ci inseguiva. Noi provavamo a insistere perché si riposasse, ma lui si rifiutava categoricamente. Diceva che doveva guidare la guerriglia. Il CE decide di andare verso nord per evitare l'accerchiamento dell'esercito ed evitare scontri armati. L'esercito intanto aumenta la pressione. Le schermaglie finiscono per decimare le fila della guerriglia. Uno dopo l'altro vengono uccisi a dozzine. Agli inizi di settembre ne sono rimasti solo 22. Sono sfiduciati, affamati, ammalati. Vagano nei villaggi in cerca di cibo, vestiti, medicinali. Il 26 settembre del 67 Che Guevara decide di dirigersi verso Abra el Batán. Una decisione fatale. Ad aspettarli un'imboscata dell'esercito boliviano. Che Guevara commette il suo ultimo errore. Decide di andare verso la Quebrada del Churro. È in quest'area desolata che termina l'avventura militare di Ernesto Che Guevara. La guerriglia è stata spinta più o meno in questa zona, con 2 o 3.000 uomini sulle loro tracce. Era una caccia implacabile, senza tregua. Ma Ernesto Guevara si rende subito conto del suo errore. L'8 ottobre il manipolo di guerriglieri combatte la sua ultima battaglia. Sono le ultime ore di vita del CE.

Era la fine di un sogno basato sulla creazione di una strada alternativa per l'umanità. È una strada che si è interrotta per sempre. Nelle settimane successive l'esercito nasconde la verità sulle circostanze riguardanti la morte di Che Guevara. La versione ufficiale rimane sempre la stessa, caduto in battaglia. Ma sfortunatamente per le autorità c'è chi, come l'ex ufficiale Eduardo Torrico, contraddice questa versione. Presi le chiavi e entrai nella scuola. C'era un odore terribile e sangue dappertutto. C'erano pezzi di carne, capelli e vestiti insanguinati. C'era molto sangue, il pavimento era ricoperto di mosche, un puzzo terribile. Avevo la nausea, ma mi sono detto: il mondo deve sapere la verità. Deve sapere che è stato assassinato in modo così orribile. Quindi decisi di abbandonare il governo. Presi un aereo e mi diressi in Francia per denunciare al mondo intero questo omicidio. La verità emerge il 30 dicembre del 67. Il mondo è sconvolto e indignato. Nel frattempo l'esercito ha fatto opportunamente sparire il corpo del Che. Lo seppelliscono di notte, vicino alla pista di atterraggio di Valle Grande, insieme a 6 dei suoi compagni. Tutto si svolge in totale segretezza. La sua tomba non deve diventare un luogo di culto. I boliviani manterranno il segreto per quasi 30 anni. Il 28 giugno del 97 i resti del Che vengono riesumati e fanno ritorno a Cuba. Oggi Ernesto Che Guevara ha 2 mausolei, uno in Bolivia e uno a La Habana. Qui, per celebrare un uomo che detestava il fasto e le cerimonie, Fidel Castro gli organizza un funerale degno di un imperatore romano. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura. Marco Rizzo, giornalista e autore di Storia segreta del Che, edito Newton Compton. Sulla morte del Che si è creata, anche sulla morte si è creata una leggenda, ma oggi, alla fine, oltre a colui che ha sparato, Mario Teran, si può dire ci sia la mano della CIA? Beh, di certo l'ombra lunga della CIA era presente in Bolivia in quei giorni, ma già da un pezzo. Pensiamo che l'esercito boliviano veniva addestrato dalla CIA, come per esso è già accaduto in altri stati sudamericani in quegli anni e in anni più recenti. Era sicuramente presente nella stanza dove avvenne l'esecuzione Felix Rodriguez, che era cubano di nascita, figlio tra l'altro di un ministro di Batista e agente della CIA. Per anni Rodriguez, che si trovava lì con un falso nome, disse, millantò di aver inferto lui il colpo letale al cuore a Che Guevara. Poi, tra le testimonianze di questo Mario Teran e le sue stesse ammissioni e anche il rapporto che lui stesso svelò, sembra proprio che invece il colpo di grazia fu inferto da questo soldato scelto a caso. Oltre a questo c'è da dire che, stando a delle smentite della CIA di qualche anno fa, più o meno alla metà degli anni 2000, quantomeno la CIA voleva che si processasse Che Guevara, che non venisse giustiziato, mentre gli ordini del governo boliviano fossero di farlo fuori il prima possibile, con il rischio che temeva la CIA che potesse divenire un martire. Quindi la volontà della CIA poteva essere quella di non ucciderlo, almeno nell'immediato? Beh, questo resterà tra i grandi misteri della storia. È uno dei misteri. Cioè abbiamo poche testimonianze che si sono anche contraddette nel corso degli anni da parte delle persone che si trovavano in quella stanza. È vero che sono stati desecretati alcuni atti da parte dei servizi statunitensi e sin dalle prime avventure in Messico la CIA teneva d'occhio Che Guevara e di certo ne valutava l'importanza come quasi eminenza grigia della guerriglia esportabile per Castro. Marco Rizzo, sul rapporto con Fidel, anche sul rapporto con Fidel si è detto moltissimo, ma si può dire che alla fine Fidel Castro ha strumentalizzato l'animo romantico di Ernesto Che Guevara? Cioè questo è un punto fermo? Guarda, se non lo stesso Fidel, di certo l'impianto di propaganda del regime ha strumentalizzato Che Guevara, questo è abbastanza evidente quando si passeggia per La Habana e si vedono i poster, i manifesti o quella enorme struttura in metallo a Plaza della Rivoluzione. Quindi, e sul loro rapporto invece tra Fidel e Che Guevara? Anche questo rientra un po' tra i misteri delle private stanze. Non sappiamo negli ultimi incontri, l'ultimo in particolare all'aeroporto L'Avana, poco prima che il Che ripartisse. Lo abbiamo raccontato, sì. Ecco, non sappiamo esattamente cosa si siano detti. Di certo Castro è sempre stato abbastanza attento a non far emergere troppo i numeri due intorno a lui. È successo fino a qualche tempo fa con lo stesso fratello Raul Castro prima che ne prendesse il posto. Però c'erano delle differenze anche ideologiche ed economiche, in particolare sul rapporto con l'Unione Sovietica e con la Cina, poi in che termini essere più o meno dipendenti da queste potenze. E Che Guevara ovviamente voleva rendersi indipendente dall'Unione Sovietica. Beh sì, ci sono da questo punto di vista, per fortuna, anche dei documenti che testimoniano, anche scritti di proprio pugno dal CE, che testimoniano la sua volontà di indipendenza, ma soprattutto il suo timore come avevano liberato Cuba dall'influenza americana con la rivoluzione, finissero poi per dipendere da un'altra superpotenza, come del resto è stato per anni. Come lo è stato. Quindi temeva ovviamente questo, anche dal punto di vista ideologico lui per un certo periodo sembrò più vicino al comunismo cinese che a quello sovietico. Quindi cercava insomma un'altra strada. Marco Rizzo, giornalista e autore di Storia Segreta del CE, ha indagato a lungo su questa figura, ma cosa ti ha colpito di più? Guarda, mi ha colpito sicuramente quanto fosse nel suo complesso la sua vita ricca, di quanto, come fosse uno spirito inquieto, come ce ne sono pochi che segnano la storia, di solito poi finiscono tutti inquieto su cosa? Irrefrenabile, scostante, che passava continuamente da un'esperienza, da una rivoluzione all'altra. Pensiamo che quando è stato nominato ministro a Cuba era forse il secondo uomo più potente di Cuba dopo Castro, tanto che appunto veniva già tenuto d'occhio abbondantemente dai servizi segreti americani. Eppure ha rinunciato alla comodità della scrivania per rimettersi in gioco e ripartire e provare a esportare quella sua visione del comunismo e la rivoluzione in Africa e poi in Bolivia. Questo già, diciamo, la dice lunga su questo personaggio. È la cosa che sorprende di più e che forse poi lo ha reso un'icona. Ecco, ma cosa hai scoperto sull'uomo? Perché Storia Segreta del CE si intende l'uomo rispetto all'icona che poi si è venuta a creare su questa figura. Ma a dire il vero, il libro ha anche un'abbondante parte che si concentra sull'icona in senso proprio semiotico quasi, e che crea un bel contrasto invece con quei difetti umani quasi che raccontiamo, dalla relazione con le due mogli sedotte e abbandonate, possiamo dire, proprio perché il suo spirito lo portava spesso ad abbandonare la famiglia per missioni più alte, potremmo dire, punti di vista poi, per carità, e così come i figli stessi. La prima figlia in particolare sembra appunto quasi messa da parte solo per essere riscoperta anni dopo e riaccolta anni dopo. Fa tutto parte di un ritratto veramente umano, così come fa parte di un ritratto umano il cedere alla violenza, l'uccidere ad esempio i traditori, i delatori, il gestire, lui si dice che sia stato un macellaio, il gestire i prigionieri politici subito dopo la rivoluzione, così come avviene in qualunque conflitto civile. Tutto questo ne ritrae appunto un personaggio assolutamente umano, assolutamente imperfetto, ricco come di solo sfumature. Gli eroi umani possono essere. Certo. Grazie Marco Rizzo. Grazie a voi.